Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto in studio da Annalisa e da Giulio in regia e in collegamento dall'AIA Alessandra. Buonasera Annalisa, buonasera Giulio, un caro saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori. Dunque Alessandra, questa sera una trasmissione ricca di ospiti in collegamento, infatti questa sera sono da sola in studio. Esatto, come tu hai ben detto, ricca di ospiti, perché come sempre il Giro di Boa ha sempre un sacco di ospiti che questa settimana non sono in studio con te, non sono all'AIA con me, ma sono in Italia. Dunque magari prima introduciamo il tema e poi introduciamo gli ospiti. Dunque cari radioascoltatori, il tema di questa sera è la riforma della scuola, il decreto del ministro. Ministro per l'istruzione Maria Stella Gelmini, riforma quindi che sta suscitando proteste da parte del corpo insegnante, da parte degli studenti, e cercheremo di capirne di più, cercheremo di approfondire le ragioni del dibattito appunto con i nostri ospiti questa sera in collegamento. Esatto, non parleremo solo del decreto Gelmini, ma anche del prossimo decreto sull'università, dei tagli che sono stati già anticipati sul bilancio per quanto riguarda ricerca ed università. Cercheremo di parlare anche dei due scioperi generali che sono stati indetti dai sindacati, quello del 30 ottobre per quanto riguarda la scuola e quello del 14 novembre per l'università. Ovviamente con i nostri ospiti. Dunque abbiamo in collegamento telefonico Gianna Cioni. Buonasera Gianna. Buonasera. Gianna è membro della segreteria nazionale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL e ha la delega alla ricerca. Dico bene Gianna? Dici benissimo, io ho fatto anche la ricercatrice per tantissimi anni. Quindi una persona senz'altro che sa il fatto suo in materia di ricerca e scuola. Un altro dagli ospiti di questa sera, Annalisa, ce lo presenti tu? Sì, il secondo ospite di questa sera è Filiberto Galeota, in collegamento da Bari. Filiberto è insegnante di scuola primaria, insegnante da 13 anni e al momento lavora ad Andria, in collegamento questa sera da Bari. Ciao Filiberto. Buonasera a tutti e buonasera anche agli ospiti. Dunque Annalisa, abbiamo veramente di che divertirci questa sera. Abbiamo di che divertirci, ci sarà sicuramente tanto di cui parlare. Questa sera i collegamenti funzionano tutti benissimo, posso dirvi che da studio vi sento veramente tutti forte e chiaro, quindi direi che continui così tutta la serata. Speriamo di continuare e direi prima di fare una pausa musicale magari di dare ai nostri radioascoltatori qualche annuncio circa i temi che tratteremo da qui a delle prossime puntate, da qui a prima della pausa natalizia. Beh, come i nostri radioascoltatori già sanno, noi ci occupiamo di un programma di dibattito, approfondimento e di attualità. Dunque, come questa sera affrontiamo il tema della riforma della scuola, che è di profondissima attualità, prossimamente cercheremo di affrontare un altro tema che è molto attuale, non solo in Italia e non solo in Europa, ma nel mondo intero. Si tratta della crisi finanziaria e in seguito poi cercheremo anche di fare una puntata sui risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E Annalisa, abbiamo qualche altro programma? Dunque, hai parlato della crisi finanziaria, risultato delle elezioni americane. Manca qualcos'altro? Sì, parleremo anche prossimamente del pacchetto sul cambiamento climatico e l'energia che l'Unione Europea dovrebbe approvare entro la fine dell'anno, pacchetto che prevede alcune proposte di legge molto, molto controverse, soprattutto alla luce anche della crisi finanziaria, quindi come salvaguardare l'ambiente ma allo stesso tempo far fronte alla crisi finanziaria, quindi argomenti di grandissima attualità che seguiremo qui da Giro di Boa con l'aiuto di esperti e di ospiti in studio. Bene, allora direi di mandare la nostra prima pausa musicale e ci risentiamo dopo. Una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio qui da Bruxelles, Annalisa, e in collegamento dall'AIA, Alessandra. Sì, sono ancora qui. Allora, Annalisa, dicevamo prima che questa sera ci occuperemo della riforma della scuola e precisamente vorremmo incominciare a discutere di questo con il decreto Gelmini. Decreto Gelmini, dunque, che prende il nome dal ministro, dell'attuale ministro dell'istruzione, che è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 9 ottobre e che ora è allo studio del Senato. Decreto Gelmini che apporta delle grandi modifiche all'attuale sistema della scuola in Italia. Tra le altre cose, i punti salienti sono la reintroduzione del grembiulino quale obbligatorio, il voto in condotta come misura contro il bullismo, ma anche e soprattutto la reintroduzione del maestro unico. Maestro unico o anche definito maestro prevalente. Ora, volevo chiedere alla nostra ospite Gianna quali sono secondo lei i punti più problematici di questo decreto. Chiamiamoli problematici nel senso che sono i punti che hanno fatto andare in piazza studenti, alunni e maestri. Ma il punto principale è che non si tratta di nessuna riforma, ma si tratta semplicemente di un taglio, cioè si vuole fare cassa e lo si fa comprendendo i soldi dalla scuola, e lo si fa prendendo i soldi dalla scuola, prendendo il segmento della scuola italiana che funziona meglio, perché non ce lo siamo inventati, lo dicono tutti i dati mondiali, che la scuola elementare è la scuola che funziona meglio e che dà migliori risultati, siamo al quinto posto a livello mondiale. Si prende di lì perché è più semplice, era molto più complicato fare equivalenti tagli sulle scuole superiori, quelle che magari hanno proprio bisogno di una riforma. Lo si fa in maniera autoritaria, lo si fa tornando indietro, ignorando totalmente l'esperienza che è stata fatta in tutti questi anni. Un'esperienza che è stata fatta grazie alla lungimiranza di chi l'ha voluta, ma soprattutto grazie al lavoro costante e la professionalità di chi ci ha lavorato. Cioè, se si dimentica che oggi in Italia ci sono inserimento di bambini che hanno problemi di vario tipo, sono diversamente abili, hanno delle difficoltà, che ci sono bambini di altre nazionalità che vengono inseriti in una scuola, che il mondo è cambiato e quindi un insegnante da solo non riesce a far fronte a tutto questo. Un'equipe di insegnanti riesce invece, con un lavoro che è coordinato, a far fronte a questo. Ora, la cosa più grave è che si è distratta l'opinione pubblica con cose tipo il grembiulino o il voto in condotta. Uno può essere d'accordo o non d'accordo sul grembiulino, non è questa la cosa importante. Si è parlato di questo e in realtà dietro a questo c'erano i tagli e c'era questo attacco a un qualcosa che significa smagrire la scuola, fare un passo indietro di fronte al pubblico, al ruolo del pubblico, e far sì che a questo punto la scuola costi meno e quindi poi con il federalismo che sta per avanzare se la prendono in mano le regioni e ognuno ci mette sopra quello che vuole. Allora le regioni che sono più ricche potranno fare di più, il maestro che insegna nella Puglia potrà dire meglio di me cosa significa nel mezzogiorno un meccanismo di questo tipo e quale difficoltà e cosa si troveranno i ragazzini e i genitori in quelle situazioni. Questo è il succo vero della riforma e poi ci sono tantissime altre cose che potremo vedere più avanti, insomma, queste secondo me sono le cose principali. Gianna, entrando un po' più nel dettaglio, un po' più nei punti della riforma, c'è qualche aspetto di questa riforma che lei vede in modo positivo, con cui concorda? No, non vedo assolutamente niente perché non è una riforma, questo è il discorso, non è una riforma, è un taglio. Per fare una riforma ci si mette di fronte a un tavolo, si coinvolgono le persone che lavorano nel mondo della scuola e si cerca di trovare che cosa va migliorato. E sicuramente nelle scuole superiori da migliorare c'è tanto, ma forse nelle elementari non c'è niente da migliorare perché va già bene così. bisogna dare le risorse alla scuola per poter fare quello che deve e che sta facendo oggi con grandissime difficoltà, perché le risorse non ce le ha. Quindi non mi interessa qual è, se è giusto o non giusto mettere il grembiulino a scuola, insomma. Secondo me l'autonomia di un insegnante potrà decidere che è meglio il grembiule o che è meglio la tuta a seconda di quello che fa fare ai bambini. Questo è il discorso, ma non è questo il problema su cui far parlare durante l'estate mezza Italia, mentre i problemi sono ben altri. Filiberto, la tua opinione di maestro di ruolo da oltre 13 anni? Bene, noi stiamo... Sul decreto in generale mi riferivo, scusami. Sì, vabbè, io non sono d'accordo sul decreto, come diceva anche Gianna, riguardo i tagli, riguardo l'insegnante unico. E volevo aggiungere il fatto che comunque in questi ultimi anni stavamo lavorando nel meridione sulla costruzione delle mense, cioè proprio portare le mense anche noi nelle scuole, perché questa cosa ci differenziava un po' con le scuole del nord, perché sappiamo benissimo che i genitori al nord sono entrambi lavoratori, quindi hanno più esigenza di lasciare più tempo i bambini a scuola, infatti proprio col tempo pieno, e questa esigenza la stavamo avendo anche noi, però purtroppo ora con le bambini questa esigenza verrà meno, e credo che andrà anche a togliere la mensa al nord, quindi praticamente i genitori non avranno più questa opportunità, e non so sinceramente dove i bambini verranno lasciati dopo le 12:30. Volevo insomma precisare questo. E poi il fatto del grembiule sì, del grembiule no, non è un grosso problema. Del voto in condotta come strumento per togliere, per eliminare, anzi per risolvere il problema del bullismo è una falsità, cioè non è possibile col voto eliminare il bullismo, perché il bullismo è un problema della società, non è il problema della scuola. La scuola cerca sì di risolvere il problema che purtroppo il bambino vive in una società, sappiamo benissimo, con problemi, con difficoltà. E quindi anche per quanto poi riguarda il maestro unico, come diceva Gianna, noi ci differenziamo, siamo a quinto posto per essere la scuola che lavoriamo in collegialità, con la collaborazione di tutti gli insegnanti, e questo ha portato a funzionare anche per venire incontro a risolvere i problemi dei bambini diversamente abili, bambini che hanno difficoltà di apprendimento, per dare possibilità ai bambini di apprendere in tempi più brevi. E cos'altro potrei aggiungere, perché sono tantissimi punti, se magari mi chiedete qualcosa. Sì, io volevo sapere, questo concetto di classe ponte che viene così spesso spiegato come qualcosa per favorire l'integrazione, da chi ha proposto il decreto, mentre da altri che sono contro il decreto viene visto come una forma di razzismo. Tu, da persona che lavora direttamente nella scuola e dunque si rende conto delle problematiche che ci sono, come lo vivi? Ma la scuola ponte inteso come? Chiedo scusa. No, perché loro parlano di classi ponte, dicendo che sarebbero queste classi per i figli degli immigrati. Ah, per, ok. Per imparare l'italiano e non diciamo così frenare gli alunni di figli italiani che dunque parlano italiano tutti i giorni a casa loro. Allora anticamente c'erano classi formati solamente da bambini diversamente abili, quindi le cosiddette classi speciali, e questo col tempo abbiamo cercato di integrarli, quindi di inserirli nelle classi col supporto dell'insegnante di sostegno. Ecco, si torna indietro ancora, si formerebbero come prima le classi speciali, però non più da formate da bambini diversamente abili, ma da bambini stranieri. E, si creerebbe una, non si creerebbe una integrazione per questi bambini, cioè noi praticamente li isoliamo in queste classi, li facciamo sentire ancora più diversi, quando in realtà questi bambini hanno bisogno di essere integrati, e quindi credo che l'unica strategia sia proprio quella di metterli insieme agli altri bambini, perché si creerebbe una classe speciale, specializzata per la lingua italiana, invece non è così. Il bambino straniero ha bisogno di stare con gli altri bambini, diciamo, di lingua italiana, appunto per apprenderlo con metodi sempre aggiornati, insomma. Filiberto, se questo posso aggiungere una cosa, questo è tipico di un imbroglio che si sta cercando di fare. Allora, è evidente che un bambino impara più facilmente la lingua italiana, che deve imparare ovviamente se sta insieme con bambini che parlano l'italiano. Questo mi sembra banale. La maggioranza delle scuole, quelle che hanno tanti bambini che non parlano l'italiano, già fanno alcune ore speciali con volontari o con personale della scuola per aiutarli a imparare l'italiano, ma sono alcune ore che vengono offerte a un bambino mentre il bambino frequenta le classi normali. Quindi cioè, si sta facendo tutt'altro, si propone tutt'altro, e lo si propone tra l'altro con una cosa di cui nessuno parla. In quella mozione c'è scritto che comunque un bambino non potrà essere inserito in una scuola dopo il 31 di dicembre, il che significa che se non è inserito entro il 31 dicembre perché non ha raggiunto, e c'è un test che valuta il livello di italiano necessario secondo quel test, a questo punto cosa fa? Perde l'anno o rimane per tutto l'anno in una classe che io chiamo differenziale, come ha chiamato il maestro? Questo è, a mio parere, questo vuol dire emarginare dei bambini e violare quelli che sono i diritti dei bambini, quindi fare un qualcosa di estremamente grave che anche l'Europa dovrebbe segnalare come un qualcosa di estremamente grave. Dunque Gian, tu hai incominciato a rispondere alla mia domanda dicendo che non si tratta di una riforma, ma che si tratta semplicemente di tagli. Dunque significa che l'unica soluzione è è lo sciopero del 30 ottobre. Oppure il ritiro completo di questo. Noi siamo pronti a sospendere lo sciopero. Basta che ritirino tutto. Stiamo parlando di scuola, ritirino completamente tutto, ci si mette intorno a un tavolo e ci comincia a vedere che cosa deve essere migliorato, dando più risorse alla scuola e non meno, perché non è vero niente che in Italia si spende di più del resto dell'Europa. Non è vero niente che ci sono troppi insegnanti, perché nessuno dice che in Italia, scusate ma io lo devo dire, nessun giornale lo sta dicendo, almeno in una radio che non è in Italia, non si può dire. In Italia, solo in Italia, ci sono 15.000 insegnanti di religione che sono pagati dallo Stato. Allora, nel resto dei paesi europei non esiste questo. E questi vengono contati nel costo degli insegnanti della scuola. E poi, invece, in molti altri paesi europei, gli insegnanti di sostegno, che in Italia esistono, esistono ma non sono pagati dalla scuola, non sono pagati su quei fondi, quindi non contano quando si dice quanto si spende per la scuola. Addirittura in molti paesi non sono nemmeno pagati dalla scuola il personale ATA, cioè tecnici, quelli che si chiamavano una volta bidelli, e il personale di segreteria. Quindi non è vero che esiste, se si spende in Italia di più per la scuola di quello che si spende negli altri paesi europei, così come non è vero che si è aumentata questa spesa negli ultimi anni. Quindi sono tutti numeri, tra l'altro noi ci basiamo sui numeri che prendiamo dal Ministero dell'Istruzione, quindi non è che me li sto inventando. Quindi è vero che non interessa la scuola, non interessa che la scuola funzioni bene. Fatemi dire una cosa piccolissima. Uno studio fatto per l'Europa dice che un anno in più di scuola, innalzamento di un anno di istruzione, porta ad un tasso di crescita del 5,7%. Sono numeri enormi, quindi i soldi che si mettono per... Scusa Gianna, stai parlando del 5,7% di che cosa? Prodotto interno lordo? Sì, prodotto interno lordo. Ti porta a un aumento, un tasso di crescita del PIL è di 5,7. Un anno in più. Sono dati, potete andare a cercarli, che sono stati studi fatti per la Commissione Europea. Allora, dopodiché è chiaro che è un anno in più di insegnamento fatto bene, questo è evidente. Quindi, forse queste cose bisognerebbe ricordarsene. In un momento di crisi i soldi dati all'istruzione sono soldi che ritornano al paese. Quindi questo il governo italiano se ne sta dimenticando, non gli interessa. Filiberto, come è stato percepito il decreto fra i tuoi colleghi di lavoro? Ma saremo sicuramente un bel numero presenti il 30 ottobre a Roma e chiaramente l'80% di insegnanti è contro la riforma e quel 20% di insegnanti di vecchio stampo, insegnanti che non accettano la collaborazione, l'opinione anche dell'altro collega, cioè nel senso loro sono... si credono magari più bravi chiudendosi nelle proprie aule e lavorando da soli. Quindi non c'è questo 20%, a mio parere, che resterà a lavorare normalmente nelle scuole, aspettando poi quello che succederà, insomma. Filiberto, vorrei tornare a parlare di alcuni aspetti del decreto. Abbiamo parlato quindi dell'introduzione del maestro unico, abbiamo parlato della reintroduzione del voto in condotta. Mi pare che il decreto proponga anche di introdurre corsi in cittadinanza e costituzione e reintroduca il voto in decimali. Ti vorrei chiedere che cosa pensi di questi altri aspetti del decreto. Ma questa nuova introduzione non comporta nessuna novità nella scuola, perché comunque a mio parere il voto in condotta o il giudizio comunque continuavamo a mettere normalmente, non vedo niente di nuovo, insomma la valutazione c'è, però si usa una strumentazione diversa, e così come anche per il Green Deal, ma la novità che poi comporta una rottura è proprio quello dei tagli e dell'insegnante unico, chiaramente. Dunque, secondo te quella della reintroduzione del maestro unico, oppure cosiddetto anche insegnante prevalente, a livello didattico non è una riforma, è un passo indietro? Sì, è un passo indietro. Stiamo già respirando una parte della riforma con l'insegnante prevalente. Chiaramente non è una cosa ancora a livello nazionale, questo dipende dall'organizzazione di ogni scuola, perché c'è tuttora il modulo, però in base proprio all'autonomia, all'organizzazione scolastica, ogni scuola decide se, chiaramente col parere del collegio docenti, se continuare col modulo oppure inserire la prevalenza. Ma ripeto, è tutta questione di organizzazione che ogni scuola può deliberare tranquillamente, mentre l'insegnante unico credo che sia una cosa che coinvolgerà a livello nazionale tutte le scuole. Giusto Gianna, mi puoi dare conferma? Sì, giusto che è questo. L'autonomia scolastica esiste, solo che se c'è una legge che impedisce alcune cose o che obbliga a fare certe cose, l'autonomia scolastica si deve sbloccare, chiaramente. Il decreto Gelmini, ci sono altre cose, c'è la riduzione del dimensionamento, come viene chiamato, c'è la riduzione delle scuole, questa è un'altra cosa che ovviamente tutto è migliorabile. Questo potrebbe essere anche in alcuni aspetti positivo, perché sicuramente ci sono degli abusi dappertutto, esistono sempre, ma è così che si opera, non so se lo sapete, ma insomma si vuole eliminare le scuole, parlo di eliminazione di scuole in cui ci sono meno di 50 alunni. parli della cosiddetta accorpazione. Sì, cioè, mi sembra che il ministro abbia parlato di accorpamento e non di riduzione. Allora, che cosa vogliono fare esattamente? Ci sono due cose. Una che è quella che se esistono delle scuole che hanno meno di 500 studenti, allora due scuole possono venire accorpate. Significa un dirigente scolastico in meno, una segreteria in meno. Su questo non ci sono obiezioni di principio. Non è una riduzione di quello che si offre ai ragazzini. Diverso invece è l'altro aspetto, che è quello che le scuole che hanno meno di 50 alunni devono essere soppresse. Allora, se uno si ricorda come è fatta l'Italia, sa che esistono i posti in montagna, esistono le isole, in cui la scuola è l'unico punto di aggregazione e quindi hanno un ruolo per i bambini che vanno a scuola, ma anche per tutto il paese, l'isola o la montagna che sia. Ma poi esiste un'altra cosa: esistono scuole dentro gli ospedali, esistono scuole dentro le carceri, sicuramente non hanno 50 alunni. Eliminiamo tutte? Facciamo sì che un bambino che sta in ospedale non può più nemmeno studiare? Dunque tu vuoi dire ci sono delle situazioni particolari che non vengono prese in considerazione dal decreto? Certo, perché se volendo fare dei tagli e basta, cosa te ne importa di questo? Allora, niente in contrario a chiudere se ci sono in alcune regioni, in alcune zone dell'Italia, ci sono stati degli abusi nel passato e hanno messo due scuole a distanza di 100 metri, benissimo, li mettiamo insieme. Non è questo che noi andiamo a difendere, noi sindacati, ma noi insegnanti nel mondo della scuola, non è che si difendono gli abusi, ma si difendono il resto. Un bambino che sta in ospedale ha diritto di cercare di andare avanti a studiare? Questa è la domanda a cui nessuno risponde, governo, ministro, compagnia bella. Allora, i nostri due ospiti sono, come i cari nostri amici e ascoltatori avranno capito, contrari a questo decreto Gelmini, se lo vogliamo chiamare riforma o semplicemente tagli. Ci sono però, per esempio, l'ex ministro dell'istruzione Luigi Berlinguer e anche l'attuale Presidente della Repubblica Napolitano, che sono parzialmente favorevoli a questa, loro l'hanno definita, riforma, in quanto sostengono che dei tagli siano necessari e che non è più possibile sostenere, difendere, diciamo così, la situazione esistente. Secondo voi, prima Filiberto e poi Gianna, c'è del buono in questo? Ma io lo vedo sempre come una riforma che porterà più soldi nello Stato, quindi tagli. Sì, questi tagli che comunque porteranno più soldi nello Stato. E non praticamente io quella, l'unica cosa che volevo sottolineare è che determinate riforme, determinate decisioni vanno ben studiate a tavolino con la presenza di insegnanti e sindacati che sono forse più pratici nel settore. E le ideologie del presidente Napolitano e dell'ex ministro Berlinguer non so fino a che punto, cioè l'unica cosa che mi fa pensare è chiaramente porta più soldi nello Stato, insomma. Gianna? Ma io intanto distinguerei un attimo la posizione delle due persone citate, perché Berlinguer è Presidente della Repubblica per il ruolo istituzionale, più di tanto non può e non deve dire, e questo io ne prendo atto, mi piacerebbe a volte che dicesse di più, ma mi rendo conto di quello che in Italia è il ruolo del Presidente della Repubblica. Il discorso di Berlinguer, con cui per caso l'altro giorno ho incontrato, è un po' diverso. Allora, lui non sta difendendo questa riforma, sta dicendo che la scuola italiana, alcuni pezzi consistenti della scuola italiana non funzionano come dovrebbero funzionare, e parla in particolare della scuola superiore. Nella scuola superiore i risultati dei nostri ragazzi non sono come dovrebbero esserci, e questo è vero. Allora, di fronte a una cosa di questo genere, una riforma è sicuramente necessaria, però come ha detto Filiberto, ci si mette intorno a un tavolo e si vede che cosa non funziona e quali fondi, quali risorse devono essere messe in atto per farla funzionare meglio. Su questo nessuno si tira indietro, ma non ci sono queste cose in quella riforma o in quella accrocco che è stato tirato fuori. E mi sembra che io non posso continuare che a dire che non va bene niente, non perché non c'è bisogno di una riforma, la riforma ce n'è bisogno, ma non in quella riforma della scuola. Ecco. Non in quel settore, non con quei metodi. Non tagliando le risorse. Mi sembra che il ministro abbia parlato di scusa Gianna, se ti interrompo, ha parlato di spendere meno per spendere meglio e anche citato per esempio un reinvestimento delle risorse nel campo dell'innovazione tecnologica legata al mondo della scuola, tipo pagelle online, prenotazione via telematica dei colloqui con i professori, internet per la didattica, ho letto di questi esempi, ecco, di questo che cosa ne pensate? Niente in contrario avere pagelle online o cose di questo genere. Io tra l'altro nel mio lavoro come ricercatrice sono nel settore informatico, quindi no, queste cose si può benissimo fare. Esistono addirittura delle scuole che fanno già queste cose a livello di loro volontariato e ci sono riusciti, insomma, e le stanno facendo. Quindi figurarsi. Io direi che il primo punto è far sì che i ragazzi imparino di più in quelle cose che Pisa ci dice che siamo indietro, maledettamente indietro. Questa è la vera riforma. Per fare questo bisogna capire che cosa non funziona del tipo di insegnamento, bisogna far crescere la professionalità degli insegnanti, in particolare le scuole medie superiori, bisogna probabilmente anche pagarli meglio, perché forse il volontariato a vita non funziona. A questo punto bisogna vedere quali strumenti pedagogici, didattici devono essere utilizzati per migliorare le cose. Facciamolo. Credo che né gli insegnanti né i sindacati si tireranno indietro da questo discorso, però non c'è niente, compreso il fatto che il ministro e il governo non ha mai ricevuto nessuno su queste tematiche. Ha fatto degli pseudo incontri sulla scuola in cui presentava le formulette che ha fatte e diceva o questo o niente. Arrivederci. Il ministro Gelmini mi sembra abbia dichiarato questa sera che intende convocare le associazioni degli studenti, degli insegnanti e dei genitori, quindi penso che staremo a vedere da questo che cosa nascerà. Io direi di fare ora una pausa musicale e poi vorrei tornare con i nostri ospiti e parlare un attimo degli aspetti di questo decreto che riguardano invece la scuola media e la scuola superiore, perché finora abbiamo parlato della scuola elementare. Siamo di nuovo all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Con i nostri ospiti in collegamento stiamo approfondendo il decreto Gelmini sulla riforma della scuola. Mi sentite? Siamo di nuovo in linea? Sì, io ci sono ancora. Gianna e Filiberto? Anch'io ci sono. Bene, come stavo dicendo prima della pausa musicale, penso sarebbe interessante per i nostri radioascoltatori anche approfondire un attimo quelli che sono gli aspetti del decreto sulla scuola media e la scuola superiore. Fino ad ora abbiamo un po' approfondito gli aspetti del decreto sulla scuola elementare. Gianna, cominciamo da te, vari appunto scuola media e scuola superiore. Allora, il punto principale è un discorso di riduzione del tempo scuola. Allora, questo non riguarda sul tempo, in realtà riguarda un altro segmento di scuola, la scuola materna. Il tempo scuola in generale fino alle 12:30. Scuola materna fino alle 12:30, io mi domando che senso ha. Esiste anche un problema di madri che lavorano e ce ne stiamo dimenticando, e poi si dice che in Italia nascono troppo pochi bambini. Comunque la riduzione del tempo scuola anche nelle scuole medie significa, e questo coinvolge anche il discorso tempo pieno della scuola elementare, significa la scuola normalmente funziona la mattina, poi su particolari richieste delle famiglie si può allungare i tempi, che è tutta un'altra cosa. Stiamo rischiando di tornare a quello che esisteva quando io ho studiato, quindi tanti anni fa, alla dopo scuola. cioè a quel meccanismo in cui le famiglie che hanno bisogno parcheggiano, scusatemi il termine, ma è così, i bambini, perché meglio quello che non lasciarli da soli per la strada, perché facciano i compiti. Beh, forse non è questo quello che ci dovrebbe essere nella scuola del 2008, e non era questo il modello della scuola fino adesso. E poi in generale c'è un discorso di riduzione del tempo scuola che poi ha delle conseguenze. Se i ragazzi delle scuole medie e superiori imparano troppo poco, se c'è un problema di necessità di migliorare la qualità dei ragazzi, di quello che i ragazzi hanno imparato, forse non è riducendo il numero di ore di scuola e riducendo le materie. Ultima cosa, l'insegnamento della Costituzione è un altro imbroglio. Non esiste una disciplina nuova, si legge esattamente quello che sta scritto. Esiste un'attenzione che deve essere portata a queste tematiche, ma questo gli insegnanti seri lo facevano già dentro qualunque altro insegnamento, insegnavano, cercavano di costruire dei cittadini, di far nascere dei cittadini che avevano senso critico, che conoscevano, a seconda del livello della scuola, quello che era la Costituzione, cioè le regole che stanno alla base della nostra società. Quindi non so che cosa c'è di nuovo, di positivo. Quindi queste sono le cose fondamentali, insomma, a mio parere. Prima di concludere, visto che mancano solamente 10 minuti alla fine del programma, io volevo, se era possibile, fare un accenno all'università. Ora, noi abbiamo incentrato la nostra puntata sul decreto Gelmini, che, come dicevamo in apertura, è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 9 di ottobre, però ieri durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi il Ministro dell'Istruzione ha parlato di una possibile futura riforma dell'università. Prima di tutto volevo chiedere a Gianna cosa pensa delle idee sull'università che il Ministro Gelmini ha, e secondariamente anche in riferimento ai tagli che il bilancio della ricerca dell'università in Italia subirà, in quanto, se non sbaglio, si tratta di 1,5 miliardi di fondi in meno per i prossimi 5 anni. Allora, a parte quello che verrà proposto, di cui non sappiamo assolutamente niente, nel solito metodo di dice che si farà, ma non sappiamo cosa ci sarà scritto. L'attacco all'università esiste già oggi e è enorme, perché, come tu hai detto, ci sono i tagli che, secondo le tabelle della finanziaria, quindi non la 133, che stanno scritte nella 133 e quindi già legge dello Stato, ma adesso sarà approvate le tabelle della finanziaria. E quindi la finanziaria dimostra che il taglio che si apporta è di 800 milioni in 3 anni, dal 2009 al 2011. Significa un terzo, calcolato sommando l'inflazione, è circa un terzo di quello che si chiama in Italia fondo di finanziamento ordinario, cioè quello che arriva dallo Stato alle università. E questa è una cosa. Poi c'è la riduzione, l'impossibilità alle università di assumere nuovo personale, parlo di docenti e parlo di personale tecnico-amministrativo. Il cosiddetto blocco del turnover. E il blocco del turnover significa che ne possono assumere ogni 10 persone che vanno in pensione, ne possono assumere 2, solo 2. Ovviamente non importa il costo, perché se va in pensione un docente ordinario anziano, quello che si spende in meno è tanto. Allora si potrebbe assumere, dico a caso, non so, non ho fatto i conti, 4 ricercatori? No, se ne può assumere per uno, cioè per 10 se ne assumono 2, quindi. E questa è una cosa. Dopodiché, accanto a tutto questo, c'è la cosa che è la più terribile di tutte, è la possibilità che l'università si trasformi in fondazione. Ora, non è un obbligo, ma quando l'università non avrà più soldi e non riuscirà nemmeno a pagare gli stipendi, è chiaro che magari tenterà quella strada. Allora, il Politecnico di Milano, se dovesse decidere di farlo, riesce a trovare qualche impresa che gli dà i fondi. l'università di, non dico Bari, ma posso dire Foggia, posso dire Potenza, cioè una un po' più piccola, troverà qualche impresa che gli dà i soldi per diventare una fondazione? A questo punto avremo, in particolare nel Mezzogiorno, le università di serie B o scompariranno del tutto, e avranno alcune università cosiddette di eccellenza, e quindi il diritto che dice la Costituzione per qualunque persona meritevole di poter arrivare ai più alti livelli di istruzione non ci sarà più. E cosa succederà della libertà di insegnamento e libertà di ricerca, che è un'altra cosa che sta scritta nella Costituzione? Quindi questa è la situazione. Poi che cosa la Ministro tirerà fuori nella riforma? Io non voglio cercare di indovinarla. Sicuramente l'università è un altro degli aspetti che avrebbe bisogno di una riforma, ma una riforma dando di più fondi, valutandola e obbligandola, in questo senso obbligandola, a funzionare in maniera migliore. Ci sono delle università che funzionano benissimo. In Italia, e questo non è solo in Italia, in Europa si è scelto il modello di università che insegna e che fa ricerca insieme, e le università che fanno effettivamente queste formano dei giovani che sono in Europa, forse voi siete esempio di questo, che sono in Europa valutati in maniera ottima, cioè i giovani italiani se ne vanno all'estero e sono pagati benissimo all'estero, e noi perdiamo, nessuno viene in Italia, perché va benissimo che degli italiani vadano all'estero, ci vorrebbero anche degli stranieri che vengono in Italia. Cosa gli offriamo a uno che viene in Italia oggi? Non lo so quello che l'università italiana possa offrire. Io so solo che ho letto recentemente all'inizio di ottobre una classifica, la classifica delle migliori università al mondo, e l'Italia ne ha solo una nelle prime 200, è l'Università di Bologna, che è posizionata al numero 193. Dunque l'università più vecchia d'Italia è addirittura al posto numero 193. Mi sembra una barzelletta, ecco. Ci sono parecchi paesi che noi consideriamo non al nostro livello di sviluppo economico, che ci hanno superato largamente. Sono d'accordo. I 192 istituti universitari che sono davanti a Bologna non sono solo degli Stati Uniti, non sono solo dell'Inghilterra o della Germania, ci sono anche parecchi altri stati che fino a qualche anno fa erano dietro di noi. E questo è verissimo, l'università è una di quelle cose, anche per colpa, lo dico con una certa tranquillità, per colpa di chi nell'università opera, quindi non è solo tutta colpa al di fuori, avrebbe bisogno di una riforma, che non si fa però in questo modo, che siamo da capo, avrebbe bisogno di avere più fondi, di essere valutata per quello che fa, questo è il discorso. La valutazione continua a non esserci, c'era un meccanismo di valutazione, l'hanno bloccato, non se ne sa più cosa fa, dopodiché il discorso deve essere quello di dire andiamo a rendere, non cambiamo il modello, non facciamo, dividiamo la ricerca dall'insegnamento, perché questo è quello che è stato vincente. Com'è che ci sono nel giro del mondo ragazzi, giovani italiani che vengono riconosciuti come bravi nel resto del mondo? Ci dovrà essere un qualche motivo a riguardo, e non ce n'è uno solo, perché lo vediamo dappertutto, insomma, di giovani che se ne vanno, purtroppo nessuno di questi poi ritorna, questo è il guaio. L'Italia ha speso per queste persone e non è capace nemmeno di poi di farli fruttare, nel senso di recuperare le capacità di queste persone. Parlo dei risultati della ricerca, non si può dividere l'insegnamento dalla ricerca dell'università, questo è un qualcosa che tutte le volte si tenta di farlo, si danneggia lo stesso insegnamento. Quindi Dopodiché alcune delle colpe sono sicuramente del mondo dell'università. Allora, avere il coraggio, non essere conservatori vuol dire avere il coraggio di andare a vedere queste cose, prenderle una alla volta. Certo non è bloccando oggi tutti i giovani che sono stati formati, che sono lì, che vorrebbero poter entrare con dei concorsi, essendo valutati, concorsi seri, gli si dice no, voi non entrate. Cosa ne succederà di queste persone? Tutti all'estero? Quelli bravi sicuramente, forse questa sarà l'ennesima perdita per l'Italia e per l'università italiana, che passerà dal 100 e rotte posto al 200 o al 250esimo. Annalisa, hai un'ultima domanda? Siamo quasi in chiusura, un'ultima battuta direi con entrambi i nostri ospiti, manifestazioni quindi indette per sabato, poi sciopero generale il 30 ottobre, che cosa vi auspicate? Un ritiro in blocco del decreto o secondo voi ci sono delle basi su cui iniziare un vero dialogo e un vero scambio con il governo? Filiberto? Sì. Ah, io penso di bloccare insomma questa riforma in atto e sederci a tavolino tutti quanti, discutere magari su qualche novità da aggiungere, perché lasciarla così com'è magari potrebbe avere qualcosa di novità si potrebbe aggiungere, però ripeto, bisogna sederci a tavolino e razionalizzare un po' sul da farsi. Gianna, un'ultima battuta, manca un minuto. Allora, lo spazio per bloccarla secondo me esiste, o per bloccarla adesso o per bloccarla prima che venga attuata. Esisteranno dei regolamenti che dovranno essere fatti, finché non ci sono questi non si attuano, e questo spazio esiste perché le cose che non vanno sono tantissime, il dissenso è enorme e continua ad aumentare, e forse ci sono anche altri strumenti, le regioni si stanno muovendo dappertutto, indipendentemente dal colore politico, regioni, comuni, province, questo significa che questa roba non piace e è sbagliata, quindi bisogna tornare indietro e fare qualcosa di meglio. Dunque, come dicevamo prima, c'è questo sciopero generale indetto dai sindacati della scuola il 30 ottobre. Tutti, per la prima volta tutti insieme, quindi anche questo è importante, scusa. Certo, da ricordarlo, perfetto. Annalisa, siamo in chiusura. Sì, siamo in chiusura, vorrei ringraziare i nostri ospiti, Gianna Cioni e Filiberto Galeota, grazie per essere stati con noi in collegamento e per il contributo a questa puntata di Giro di Boa. Grazie mille anche da parte mia. Grazie anche a voi della trasmissione, arrivederci. Grazie, è stato un piacere. Saluto Gianna, buon lavoro. Ciao, ci vedremo il 30. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.